Antonello Alessio, ci sei? 1, 2, 3, prova. Attenzione Alessio. Cuffo, cuffo, cuffo. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Alessio, ci sei? No, che sono a bracciere acceso, ho detto. A bracciere acceso? Allora siamo invitati io e Gio Maria. Gio Maria è a 27. Sì, ma caricare a garri, era pane, era birra, era vino. E bombi. Era Caldrea, no? Sì, si andate da Graziano che c'ha agnello al forno invece, me. Bebe, che le magie gittò. E trullalla. Arruccia, arruccia, si lascia d'arruccimento, capito? A faccia nuccia, to! Ehi, non è inteso, catta! Boh, non lo so come, a faccia nuccia, effendi! Per carità, gatta! E lui si abbozia, saburo, gatta! Allora, con caglia di blu, non fai niente, di non fai niente! Boh, si fa di rapitista, almeno si vita in manco! Ehi! Vabbè, da Graziano mi fa agnello al forno con le patate, a vedere! Cararello. Isso! Mi faccio la bella domanda! Ci rimane a poco, lascio di rubare il bossetto! E ce la mangia anche da dentro! Io ne ha giusciato il bossetto! Ne ha giusciato, ne raggio, che cosa lo puni a fare? Ma è dove Piero! Non mi sa di più niente! È sempre cucinato malissimo, ma è sempre componenti. Lasciamolo cucinare. Che lo ferma. Che lo ferma. Loro con barruttini a filare, a sopportare, così se sei vivi. Lascialo, già va tutto derrato all'aria aperta, non rompere il canto a nessuno. Sono nonno per il marrucito. Cosa vuoi? Tre caballate. Truccola. Pronto a cucinare. Truccola. Chi si fende il fuoco là? Impegnata va, non ti rispondi, no. No. Capito? Qui c'è Graziano, sono tutti qui impegnati, uno cucina da abbassi e l'altro cucina da abbassi. Ma poi ma faccia avere un fumo, si vede, abbassa di Graziano. Ma come si fa a vedere un fumo? C'è il porro, un passato, bello per... Hai detto? Oggi davvero un orto portale, oggi è entrato al forro. Sì, sono entrato, davanti al forro sono entrato. Ma come non è uscito arrossito? Oggi c'è il vento, fuori non fa, c'è la bandiera rossa. Capito, oggi c'è bandiera rossa, poi sapere la bandiera rossa, sì, nell'orto botanico. Non rispondi. Cosa sei entrato? 30 al forro, Gian Maria. Ah, bisogno mio, Graziano, cos'è il salbozzo 30 al forro? Rubedi, ho rivolti, alla lea l'ha dito. Catta che andemmo per andemmo. C'è agnello al forno con le patate. Catta, gli assenti invidiosi. Noi non siamo invidiosi, vorremmo sapere solo. E l'ha già detto di arreggare i noghi. Che sopra... sopra Graviglia, villaggio la Graviglia Manna, proprio Bagnoni. Mi cazzi meglio che dentro al forno. Capito, Etto. E il Bagnoni lo vecchio di rende, va. Cosa so, cosci di pollo? Ali di pollo. Cosa sono? Ali di pollo o acciughe? Ah beh, vabbè, sono così le topolini, gatta, otto. Sono arruccate i topolini. Sono i topolini? Ma. A me pare che sia. tu fiago e arriva dai roghi e cicché ti ha il topolino mi bara a me. Ah, e no che non sentendo manco un fiago come. Solo lo a Graziano intendo. A chi a te, Rupetto, è la baciariera. Che si di Lucca, che un fumo di Lucca che mi arriva da questa zona. È il fiago maru, Così è, ma. No. Luca, cos'è il busso? Ario! O così? Fiago feo, Eto, fiago feo. Ma è dribbiato di questi cosi. Per carità. No, è appoggio con bastoni, no? Ah, beh, poi. Mi pare a peccato la chissura con di fogna. Stai che vedo cosa. Come ti è graziato, spero con battato. Graziato per un battato. Luca, spegni il concetto di rospo. A tratti di te da isso. Beh, ma sei del tuo forno, Graziano. Grazie, ando su da 30 un forro. Sto girando le coccole. Oh, Gio Mari. Beh, a mezzà. Gio Mari. E scende, va. Lascia dal caro forro. Gio Mari. Eia. Ma io credo, penso che è poco, che so che ti sente Graziano, che gira in dire al costoletto. Catta che hanno fatto da russo, così ne è già la moglie. Ma, vi credi tu che così ne è indietro? Te, questo è così fogna, bisogna con un battato, il forro è freddo. E allora, è sicuro? Bello arrosolato! Mandami una foto a vedere se è vero, vai! Adesso non ne posso fare, dopo te la mando che brucia! Che te fa un raggio, Gio Mari! non te la... a chiamarsi, no, si conosce che va... che su caso di Dio, capito? Pensi da voi magari lo dagli appesi e non si conosce più e ti lo manda da voi. Ah, che ancora si vede Rubero, così è. Sì, la verità è bello, beh, confessa di, grazie a solo voi. Ehi, la chitarra di voi, te lo spiego. La cioè la chitarra... Amore! Grazie. Ehi, catta. A roba di che è nata la griglia, cosa si dice? Che è nata la griglia, Arrossendi, No, se arrossendi. Che a te allora bisogna fare un po' di... orzo di lascio proprio, ma fare un ruio. Che andemmo per andemmo, grazie, Che fine ci sei vendi? Lascialo andare che stiamo, ti vedi a fare l'orto botanico. Che cosa che è nata la griglia? Buonasera signor Bacchiso, che è nata la griglia, Buonasera a tutti, belli e brutti. No, devi zappare Graziano, lasciatelo zappare. Oh, così è di un roi, poi, buonasera. Con un battato di Zigrafelli, il forro, però, non è arruscendi, no? Era così è di forro, con un battato, ha detto. Ma la voce del battato, però. Chi si la cavalla al bossetto? Lo può mangiare sempre un battato, ma con la buccia si vuole lo bagna. Beh, chiaro, mi fa sicuro che mangia un poco di buccia, così è grazie a... Non rispondi, no? Ma chi è impegnato, gatta, a ruggere, gatta, tu pure, gatta. Ma poi per Luca Bulu, questo è... E piedini d'aguille sta arrossendo, Luca. Piedini d'aguille. Aspetta, buonissime. Luca, avanti. Piedini d'aguille che arrosto. Sa se vuole girare, da male. I piedi d'aguille sta girando nella graviglia. La buccia. Parole, non i gambaroni. Dore, cosa ne dici tu? La buccia è girando i gambaroni. Tanto tu si abbagna e voi abbaiditi. Glielo tu, Bacchi, glielo sì, Non te ne arribanno. Mi fa poco arriva la guerra, lì. Ah, Vieni, ho sento di buccia, sì. La buccia, Bacchi, No, sì, la buccia la fa, va bene, si la buoni in un bossetto graziano. Sì, guarda che la porto, ma quello non la raccoglio, ma appena che raccoglio la fa, va lì dopo la buccia. E se li prendi pure un bossetto e vai in campagna, se non li basta. Beh, tanta grazia, ti fa la provincia la banca. Non rispondi, no, sono Maria, impegnatissimo. La gente si arroccete, gatta. Ma è te, siamo gelosi noi, ha detto. Beh, è chiaro, siamo gelosi a che non lo proponiamo, gatta. Siamo gelosi a chi... Voi fate di tutto, noi però non faremo niente. La gatta sto cannuta che io sono qui che ha fatto. Lei non ce l'ha fatto per parzialità. A chi dà un po' di buccia di battato e di fava, a noi nulla. E dai, ma chi? Ti stavo ascoltando bene. Mi ascolti? Adesso sei uscito perfettamente. Secondo come metto la radio, perché ce l'ho in mano, capito? Sono col portatilino. Va bene, ma chi? Sei arrivato bene, dai. Così, vabbè, poca sei uscito a tratti, però adesso stai uscendo bene, dai. Capito, Tore, avanti, cosa racconti di bello? Che cosa vuoi che ti racconti, ripeto? So che gli viene da una base all'altra e più che due bruci non ti dicono. Non ti dicono. Di che cosa, di qualcosa non ti dicono, e boh. Vabbè. Prova. Prova to. Chiedi a Marino, ti dà consiglio a Marino, Marino è esperto. Era già detto, gli andà. Se carichi la gente riposta da ici. Oh, ho capito. E arrivi allora, non ti preoccupare. Se la riposta di venire là, sono maleducati. Avanti, grazie, questi piedini facili hai. Cosa? Graziano fendi i piedini e prendi. L'arrosto con le bucce delle patate. Oh, la buccia dei gamberoni, la rossa è la buccia dei gamberoni. A me mi pare la buccia buccia di pantalone a bruciare. Può darsi burro, vero Gian Marino? Ah, un fiago che intendo da questa zona. Non mi pare gamberone. Mi bacio un fiago più delicato. Ti va vedere da buglie. Sto impegnato, ci rendi, capito? Gatta, per il dopolini, gatta, pure i battati in forro, gatta, hai inteso? Ah, ma con uno rossicheggia oggi, Canotti. Canotti fa che rossicà, capito? La rossicheggia Graziano Canotti. Si pone i ghibi e comincia a rossicare la radio, non lo viva vita, che è impegnatissimo. Allora sì che ci pensa. Lui sì che ci pensa. Davvero. Ehi, vai, vai. Ma sembri fa. Vediamo un po' se è arrucce di rucola, attento rucola. Eiu! Ebbene, allora io. Non è tanto scoppiettendi, no? Beh, ante, abba. Ante. Oh. Scoppiettendi. Scoppiettendi un fuoco. Ah, eccata. Ancora così, io pensavo di già fatto un tubo e ancora il coppiettente, boh. A chi lo può che sopra, la gara è sotto. Ah, così, vabbè, hai visto Bacchini? Il orto botanico sono così denti allora. Ma Luca l'orto botanico, ve la solo graziare l'orto botanico. Certo. Luca fa il baby cruva. Ah, la pedicuccia, capito, Luca è più moderno. Vero Luca! Iu! Allora, come ci se ne va, una girata. Ah, te. Beh, però non mi pare via buono, da questa zona, in Ciabasti è fedevi, rumento le ragazze, tanto in Ciabasti su. Boh, odore non mi piace tanto, però lui. No, allora, lasciami vedere. L'antenna dice che lo vento è verso la VTV di oggi. Domani al contrario, allora. Sicché non via come ti può arrivare a te. A Graziano arrivende, lo vedi? Arrivende a Graziano anche fatti lo giro di urati d'ozzi. Beh, mi barissa a me, mi barissa il vento da base di Graziano, gatta. e non sai no che burro, boh, ma chi, qual è il vento? Tante cristiano e buffente della piazza, il vento è in assenza della piazza, è incanalato e ne prende tutta la bacca in ultra. Ah, così è incanalato là. E beh, da rua come sta aprendo lo forro, lo stai no che nasce lo fumo, cazzo, boh, boh. Ma fra poco preparati il tovagliolo, la buchetta è... E non credo che siamo mai niente. Ma un po' di pane, vivù. Capito, insomma, barrimone se vivone. Ho capito, bacchigia. Vediamo al Tore, Tore! Devi lasciare che va, che nasce vuole, va. Che nasce della macchina. Ah, signor Bacchi, che nasce vuole, va. Gli ha inteso che si deve che nasce della macchina, va. Uguali identiche. A carbonio. A carbonio ce li hai. Allora sono colorati. Chi si che tratta, chi si che tratta la macchina della Ferrari? Ma io si cade in un bambi. Poi so ci posso due ventoline io. Ma che smettere con il fuoco, no? E allora. No, ora ti accompagni la campagna mia. Presto buono mio. Troppo lontano, troppo lontano. Ma si la vede ti innamori subito, chi fa una vista in tutta. Chi si vede in tutta la costa, chi era bassi più bassa i Sennari. Aspetta, no, no. La sappigli che è meglio. A me la seggia non mi piace. Oh, Tore, ma ha detto Gian Maria che andò la vista. Catta fermo giambo, noni! Hai compreso, Marchi? Ma che tu vuoi una seggia? A me la seggia non mi piace assai. Compresi io. E poi per freddo di ferro, da me per casa, la macchina è più riparato, gatto. E che lo cos'è qui, Gio Maria, la campagna di Lucca? Di Lucca? Una cosa di bello c'ha, che c'ha la fissa, vedi tutto, vedi, Tutto, mi pare ci vede pure un castello di salto, mi pare, non me l'ammento. Tutta la cosa per il Bacchì, è bello, veramente bello. Però poi in realtà solo il disio, il bello fa anche di cibuccia. E allora oggi per vento io vi sopra. Per vento. E allora vi la abbonare alla campagna, Edo, abbiamo testi di pillo. Catta. Oh no. E da resta a me domani si attrinse e andi a pulire lo manco a passare. No, ma cosa? L'avviso... Se la devo pulire domani, bah, è già pulita, pronta a fittarla. Ah, Sennari e Tore. Oh, Bacchi, a Sennari, dove c'è il campo sportivo? Costeggi il campo, il muro d'aglione del campo sportivo, vinta sopra e si è arrivato. Ma non è lontano, è vicino. È vicino allora, non è lontano. Sì, in altura, stata da Campo Sportivo, è anche una bella zona ivi. Bella sì, perché la parte. La mia campagna è proprio la campagna più alta di tutti. Capito? Come finisci la salita del muraglione del campo sportivo si è arrivato. Capito? E poi ritorna in discesa verso le campagne. Ho capito. Non è lontano, 10 minuti di macchina sei lì perché la strada è abbastanza scorrevole lì. Va un vivaio pure mio, Bacchi, c'è un vivaio pure in quella casetta che c'ha, Vivaio? E di cosa è? Di gioca? Di piedi d'anghita. Tutti abbiamo due sogni, con ognuno che ho fili di più. Chi si sia andare in forro? Puccicani, a fili sodduia. Ma duro, come te ne pare? Mano come te ne pare ciò? Di Zurichi. E allora, tutto vero, che ha finito quanto venne catta? Ah, faccia poi si raiata a Trento, e si rimagna. Ah, li mangia gli altri, chi so, che sì, mi pare che si mangia gli altri, chissà, chi si vesti ora, e li tiro lui, Luca. Ava, Giomari mi sei puttanendi, boh, vabbè, boh. Vai sì, ma sa fa la ruccio subito chi si, vedi, invi tutti gli amici che a te, vai a ruccio, e li sarimi subito. Carne bianca, carne bianca. mi sono qua stucciato. E lui, ti dici raggi, sono fuggito subito. Ma quando vai a passare a fuggito. Avanti, si alto. Ore! Pa, non i botti va, ogni tanto è della mattana e si aspetta, capito? Ok. Otto, vai a prendere la campagna di Luca. Se ti biasi. Oh, deve essere andato dalla casa di Graziano a mangiare. Ah, che l'ha già visitato Graziano. Luca, ma non bisogna stato più. A Ivi. Luca, oh, non si può fare né per la voce chiara. Tutta sentenza di ciò che mi pare che sia giusto, gas. Lo penso che ti dassi fastidio. E di porca la gente, capito? Carità. Tore! Graziano, non rispondi che mangi niente a quattro canasci. E tu bello bene, finita da arrostire. Ha messo il forno. Sono tutti indaffarati, ma chi è? Siamo solo noi che non abbiamo impegni, e che invece sono tutti impegnati. Ma chi noi non vogliamo arrostire, deve andare un lungo per arrostire e poi fare isso. E dunque sono impegnati. Ma da manco di invece l'invito una sera a mangiare quattro canasci, invece nulla. Graziano. Mi consideri un poco, no? Ma poi lo fisci in opera fasi, abbiamo dato tutta la badetta, se lo buoni il bossetto. E di domani, o a pranzo, a cena, si lo mangia. Ah, capito, e fase bene allora. Tutto il recupero, Tutto il recupero. In cacchetti, capi, a chi è temere, a chi ti si fede la guerra, no? Allora si fede la brudiccia, Giuseppe. A base del l'altro bossetto che fa biozzo. Ma chi si sa di cosa lo piena, voi? Chi si vira pieno di denaro e non vi pone nulla, Trento, che bisogna di denaro? Sei su che dovrà andare. Cazzo, vivi di reddita, Edu. Ogni sera anda e ritira. E poi resta il bossetto, Meno male hai sudato bello il bossetto. Così è bello bene. Tutti i diritti vanno bruciati. Maledizione. Cosa vai? Viaggio bruciato di polpastrelli. E te sei bacchi? Ho compreso, no? È basso. E fa vedere lontano dal microfono. Adesso mi sono bruciato il polpastrelli. Dopo pastrelle delle mani ti sei bruciato e basta pigliare la bocchetta. Ma lì c'è una scusa per non invitare noi va. E vai così Gianmarì. Grazie sai, non basta mancare tu gatto, vuoi invitare noi gatto. Ah, si può mangiare tu e del ricordo già la domani Tore si è mangiato lo zurico. Chissà se è buro. Va pure Luca, sono Ruzzelli, capito? Sono Ruzzelli. Sono partito di scintille di Luca e Bona, hai intesa altura. Chissà Ruzzelli tronco di legna. A me mi pare che questo è parlato a campagna, a Senna, è nato poco di animaletti, è fin dal ruscio. Poi è stata a campagna Zoya a parlare un po' di civici. Tanto ho finito un bambino, gatto, una dromata, gatto. I ridrapi, no, i ridrapi della cabezzuria, no. Tutti affacciati quando si arriviscono. Ma se non finiremo con la quarantina, con ognuno. Tanto tu si riprende il calendario, e io ci mi appuro, io. Dice la corsa insomma, che poi a correre fa la Formula 1 e vinceni. Tanto quindi sono saltato di mio. A prima che tu sta zona Ibis sono arrivati, sai che non fai nessuno. Tutta Ibis è giunta, gatta. Vero lui, diglielo! Sono Ibis che non sono disturbati, capito? Non sono disturbati, e rimangono lì. Se invece siete disturbati, hai visto che mi ha stato. Per carità. Oh, yeah. Vabbè, va. Lasciamo lì cucinare, eh. Se no i salti non mangiano. Si fanno da lavare a chilo, i salti non mangiano. Intendi, la giubbocchi a così, a mamma. Ah, no, Lu. Non vi sei tornato un bio a sopra? No, no, no. Non so come così fa ancora la casa, pure i travi, boh. Già hai mangiato pure la travi, va. Io sarei mangiato tutti i sette che vira. E si mangia pure i terroristi, si mangia. Certo, già bestione, cazzo. Ma chi? Non ti seguo niente con ognuno, cazzo. Io sono buono a Russo Milù, a chi non lo mazzi? La regola Rosina e il vice Graziano. A te un Graziano che arregla la carabina, detto. Ah, gli ha fatto la carabina, allora, si appoggia allora, poccia il Ziru, prendi la cazza, allora, vedi, dai. Così si diventa, Bonadì, no, con la anche carabina. E lui a fanno, come te che dà su, che mi ha buccato a tu, lui zambullare della Mondessa e dell'Eva, gatta, per carità, ragazzi. Non va la campagna d'ora, allora. Ma allora cosa ha fatto rubare la bruta? L'ha fatto. Ha fatto quella carabina, tutti i pitoli di plastica mi hai fasciato, qua. Tutti mi hai fasciato, tutti buccati, mira. Ma un uomo umano, qua, ma tu te li immaginate, ma chi? Se non voglio altro la dirà. Allora tirava i pitoni. Poi i pitoni li ha versati più facili. Ah, che bravi pirini, direi pare a cabaezzo, gatto, boh. Tutti fasciatemi, boh. Hai detto me, quando sono scesi, hai detto, vabbè, bicchio la questo cancello, allora non lo vedi più, così l'ha giudicato. Dato il benestare, l'hai dato. E ora se lo ah, Matteo si bara carabina, so. E Graziano a Matteo si cosa, mi. Ah, ma mi pare sono girato qui, uno dalla Germania ha girato. Però Graziano. Ehi, you. E te, ma chi? E te. Ah, vai a campagna di Lucca, gatta. Ah, ma chi mi va a pensare, gatta? Con la carabina, gatta. Lucca, poccia a dirlo. Vai, insomma, ma è vero, sì, mi sembra che chi la zampa ne ha ruggato, lo sai come ti si lo mangiano? Grazie. Ehi, a fare la cabina buona, gatta, gatta, tiri, caldo, a un tiro, mi ammassa due o tre, di filo, grazie. Ehi, ti rimbalzo l'ammassa, gatto, due o tre la buccia. Povero bicchiore, la carabina, e le vedi strage. Poi è sopra la graviglia, Come te ne impari uno, lasciati si chiude in nato quante tartarughe ninja. No, vabbè da che l'ultimo che faccio ha 10 colpi. Ha 10 colpi, tra gente come te tu impari un primo lasciati da zompane a cotto. No, che è in automatico. E allora, quella è velocissima. Non perdi tempo. Ma devi averne un bel di dentrimi, a che? Chi mi sono più di dentrimi? Devi John Marì. È nata la banca un po' di burro e bicchioni. Si fa in tempo a pigliarla, sì. A chi da poi il decimo colpo non lo so, guè. Va giù burro la granata, va giù. E chi sa, ne esce un bel di ballini. Siamo fuggiti noi, gatta, ti vuoi brincare in alto. Atta, che si lo fa impresa il parallo di riprincare in alto, E allora lampo di granate, chivi, ne vedi strage, ti evacua a me, farò, Allora, lui vai, una dice di ti rubossemo, e si renderà conto se come ti disiedo. Ma sta girando il fuoco a gas. Viraggio a gas e manuale. Da voi venita a scoppio. Esplode. Mi pare che i trescini roba i 200 ballini. tutti dispersi per l'aria, dove arriva arriva. E te, la guerra vuoi fare allora, graziato? E allora? Ma sei uscito a tratti, grazia, E adesso, perché ero soffiato? A me dai nobili, curracci, manco da piscinare in più, a chiruzzani. Ma chi si lo... non ti ripricca l'inalzo, ma chi sa... chi sa l'animale che sono la ducca? Guarda, se tu rivedi, fuggi, tu fuggi, frido che fuggi. Se vuoi fuggire tu, se hai apprecchiato in alto. Ti vuoi mangiare, se vuoi mangiare, buoni drapi, insomma, niente. Addirittura. Allora, bisogna distruggere questi cosi, tu. Possiamo disgraziare, dai. Oh, ciao Mari. Oh. Ciao Mari. Oia! Fa venire chi, Graziano, si deve vedere come entra il Rambo, anche se no non fa zenuta. Ma è fra attrezzatura, invece il Rambo, cazzo, vuole bomba a mano, cazzo, ma non ci botto a terza pari, a poi a bomba a mano, così è Graziano. Luca, vedo che ci fragilimi, ma non v'è nulla però. È pieno di pollo, è pieno, ma intendi no, ali e schiena. Cosa mi hai fatto vedere? Un buccione mi hai fatto vedere. Ma chi? Picciola. Non se ne comprende nulla, no? No, se ne chiama cavato, l'ha fatto vedere un piacere a Tore, del Biuso, non è venuta, solo Gaiboni. Un poco di sale è buono che sono burro. E la claviglia è buono che faccio vedere. Tu sai la sarifa appunto, vai, non ti vedo buco, e vabbè che cosa vai. E voi sei fendi Graziano, mi. Sarei grosso Graziano appunto. E allora, a chi ha pisciccoli devo tirare, a chi? E chi si andava in me per fare il corso, per tirare? Ruggia romano quando arrivi. All'ardo e sale grosso, padre che la sta a voi. Mia, padre che sa con il rulaggio della carabina. Ho provato vai, grazia. Dove che pigliava il golpe, non hai compreso? Cosa? Che sta basculando il telefono, la faccia il sudato, buh. Ma Giudizio, ho provato vai tu a farla funzionare il laggio. No! Padre che so, padre Ruglio, lì al seminario, tirava verso il giardino, quando entrava mi ha fatto la rana, era un mandarino, in quel giardino dei frati. Ed entrava dall'inferriata dello trainetto. No, io entravo dal viale, alla fine del viale, all'altro. Dietro c'erano a cabizzoni che fuoriuscivano i cattoli bianchi e pariano a tutti, e passavo dai lì, a chi veniva più bene. Ah no, pensavo che passavi il rotraino, non era il rotraino, ti rammenti, ma io ti hai conosciuto, non era le sbarre di ferro, dai chi mi si passava prima? Già lo so, un bel passava lì dai lì, era al centro della strada, che passava al ruscello. Però chiedo di quello che passava al ruscello, dai. Capito, passava l'uscello e si entrava dai chi a furare la roba ai frati. No, io entravo dal viale, alla fine del viale, andando verso la Madonnina, dove poi inizia il muro a tracchite, da lì. Quello delle suore, chi viene, il corso delle suore, quello dei frati è fatto in cantoni. Quello delle suole fatte in tracchite e si poi apre in capo i chivi tra un muro e l'altro. Mi trovo dai chivi, mi veniva meglio, un po' invece trovano i chivi dallo traino. E infatti chi si pigliavano i bicicolati non più erano i 15 anni dallo traino, a chi si appostava in mezzo all'albero e tiramenti erano i cipressi. E cominciava a tirare a palla e a sale. Da poi un viale da casa mi ha regato due cucciarini a Gianfranco Serregna Mi ha giocato la rosata dei ballini che va via attaccata alla china. E io sì. Giammaria non l'ha conosciuto, visto? Giammaria, conosciuto l'hai tu? E come te l'hai conosciuto, gatto? Tu stai stato, l'hai conosciuto benissimo. Oh, ma chi? Si tempira. Scusate, hanno suonato, va, ripeti, ma chi? Ehi, Giammaria. Tempi moderni erano, capito? Tempi moderni. A Gianfranco Serreri, non lo so cosa lo conosci. Tre volte l'hanno imbizzicato, tutti li fa da bucchi va via. Come si rivocava i ballini con i cucciarini? Con i cucciarini da casa abbigliavo, te che ne fai brincare, i ballini conficcati dai fatti. Pallini, di tutto punia. Avanti to. Ehi, catta. Preparandosi, Graziano. E allora, subito, è un pezzo, non voglio, devo fare isso, però vado veloce. In Cassarola con la riva. Cosa sei costruendo in Cassarola? Sarroni. Agnello, agnello. Io non ne mangio parole. Hai visto cosa vita in televisione, che l'agnone non si ammazza, la brambilla. Hai visto, non si rimagna l'agnone. E allora se lo rampavo, sicuramente non vi sta a nulla, e ha già eliminato un pezzo di ghiso, se no non vi sta a l'altro. Hai fatto lo spazio. Tu spazio e fendi, Graziano. Ehi! Catta che andemmo bene, andemmo. Sì, male andemmo bene. Male. Beh, sai ragazzi, cosa vi dico? Mi sembra sia arrivata l'ora del merendero, grazie a. Tu pure mi pare devi fare merendero. Dunque a me mi tocca avanti. Bene, signori, io vi saluto, vi auguro ancora buon consiglio. Ciao, dottore, saluti, saluta la signora. Ci sentiamo domani, tutto coincide. Idem con le patate per Graziano. Grazie, ci sentiamo domani, saluta la signora e buona cena. Anche per Luca, buonasera Luca, ben ascoltato, buona ancora di cucinero, tu sei a Fornelli. Ci sentiamo domani se tutto coincide. E anche per Gianmaria, ciao Gianmaria, stai all'ascolto, Bacchisio QRT. Ascolto il finalino e poi chiudo. Avanti Tore. Tore, ci ha sentato a girare un bocchito, dai, riprendo io. Ciao Bacchi, buona cena e buon tutto, dai, ci sentiamo nel prossimo. Avanti Gianmaria. Ok, ciao, ma che ci sentiamo, e anch'io sto chiedendo questa gente, dai, saluto e circolerà a tutti, dai, anche a Graziano, ti saluto, dai, che c'è gente, ciao a tutti. Ok, saluto anche io a tutti, dai, buona cena, Bacchisio, buona cena, Gianmaria, buona cena, Tore, buona cena, Luca, e buona cena chi è in ascolto e chi c'è. Ciao a tutti, a domani. Ciao Graziano, ciao, a domani, ciao. Senti, zio. Oia, dimmi. Aspetta che c'ho la bambina che sta... Ma chiudendo sta? Ehi, avevo le medicine, è arrivata l'ora per me. E allora ci sentiamo, basso. Capito, top. E poi cenare. Va bene, dai, ci sentiamo domani, oppure farti vedere, fa come vuoi. Ehi, Abacchi, già ci sentiamo, dai, ci sentiamo domani. Comunque, ti do la buonanotte e ciao agli altri anche, che non ho sentito. Ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ehi, a domani, chiudo anche io, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, Luca. Ciao, To. Vabbè, dai, se ti piace, ti lascio la fotografia. No, non me ne manda altro, che sennò da voi mi tocca vedere il gosi.